12. Guy Johnson avvertiva scricchiolii tra nuca e spalle, o meglio, un rumore simile a un macinio, come quando si sminuzza il vetro o si cammina sul pietrisco. Sabbia tra le vertebre, qualcosa non andava, aveva dormito male. L'ansia lo portava in giro per casa, avanti e indietro, a metà tra una bestia condotta alla briglia e un recluso che tentasse di sgranchirsi le gambe. Ogni mattina si svegliava e non trovava pace. Ogni giorno si sentiva più basso e tarchiato, schiacciato come sotto una pressa. Di ora in ora le spalle un po' più curve, le gambe rattrappite. Il peso dell'eredità di Sir William. Il peso degli affari indiani. Quel pomeriggio fece ruotare la testa tutto intorno. Destra, sinistra, poi mento in su, mento in giù. Adesso inclina il capo. Orecchio sinistro quasi a toccare la spalla, stessa operazione a destra, ma niente da fare. Qualunque cosa fosse fuori posto, non si sistemava. Passava frenetico da una stanza all'altra, scrutava dalle finestre, sedeva allo scrittoio, rovistava tra le carte, riprendeva la lettera del generale Gage, si alzava, tornava al tavolo da disegno. Cercava di quietare il proprio stato d'animo, rovesciando l'agitazione su uno dei grandi fogli bianchi. Tracciava e affastellava ghirigori, linee curve, fino ad abbozzare figure umane che subito gli apparivano sinistre, ominose, presaghe di cattivi accadimenti. Accartocciava i fogli, si alzava e li gettava nel camino. Guy aveva sempre amato disegnare. Purtroppo i disegni erano bruciati nell'incendio di 2 anni prima. Un fulmine aveva colpito la casa, le fiamme avevano divorato il legno, la collezione di mappe, i libri della biblioteca, importanti documenti su concessioni terriere. Aveva fatto ricostruire la casa in pietra. Lui e la famiglia vi si erano ristabiliti da meno di un anno. Ora Guy Park era un edificio imponente. Dopo le minacce dei bostoniani, erano in corso opere di rafforzamento. Dal Massachusetts, gli scontri si estendevano e aumentava il numero dei ribelli. Si temeva un attacco al Canada, sguarnita roccaforte della lealtà della corona. Da qui, l'ordine di Gage appena giunto. Mobilitarsi, partire, attraversare il confine con uomini validi, indiani compresi. Già, ma come dire ai Mohawk che dovevano andare a combattere in Canada mentre la vallata era in subbuglio? Guy era un ragazzo quando aveva lasciato County Meath e l'Irlanda. Aveva raggiunto in America Sir William, suo lontano parente, e ne aveva sposato la figlia Mary. Gli anni trascorsi in America superavano ormai quelli vissuti nella madrepatria. Eppure rimaneva un irlandese tra irlandesi, proprio come il vecchio. Se inciampava in una radice o si tagliava col rasoio, imprecava ancora in Gaedelge. Quando, rimuginando su qualcosa, contava sulle dita, diceva «On, do, tri, chatire», l'antica lingua e l'antica fede. Come il vecchio e tanti irlandesi delle ultime generazioni, Guy era fedele alla Chiesa d'Inghilterra. L'appartenenza alla fede anglicana era condizione necessaria per il cursus honorum nei ranghi dell'impero. Niente papisti tra gli uomini di fiducia di Sua Maestà. I papisti erano Spagna e Francia, potenze nemiche di qua e di là dell'oceano. I papisti erano pluricentenaria sedizione nella più vicina riottosa delle colonie, l'Irlanda. Sir William era nato e cresciuto cattolico. Nell'Irlanda assoggettata, pochi tra i suoi parenti si erano convertiti al Dio inglese. Parte della famiglia Johnson aveva appoggiato la ribellione giacobita per mettere sul trono un cattolico, Giacomo VII di Scozia. Sotto il bitume che copriva la carena dell'anima, l'antica fede pompava sangue al cuore. Superstizioni, formule di buon augurio, raccomandazioni a un santo, frasi dal messale latino. Dopo la sconfitta, l'esilio giacobita aveva toccato l'America. Nella valle del Mohawk, porta orientale della lunga casa, si era insediata una comunità di scozzesi delle Highlands. Che fossero cattolici non era un mistero per nessuno, men che meno per Sir William, che aveva accordato loro protezione. Erano divenuti parte della comunità, pronti a impugnare le armi per difenderla. Da 30 anni, leggi intime non scritte regolavano il mondo che Sir William chiamava Irokirlanda. Ciò che Guy temeva era il crollo degli equilibri tra indiani e bianchi, corona e colonie, ribelli Whig e lealisti Tory. Il crollo avrebbe dato l'America alle fiamme. Nemmeno i più solidi muri di pietra avrebbero protetto dall'incendio il suo mondo, la famiglia, le proprietà. Per giunta Mary era di nuovo incinta e la nascita ormai prossima. Dopo le femmine, forse l'erede maschio, E proprio adesso bisognava partire. L'indecisione strozzava le viscere. Di fronte al peggiorare della situazione, soltanto una persona poteva aiutarlo. «Padre!» disse una voce infantile. Guy, assorto com'era, non ricordava in quale stanza si trovasse. Aveva vagato come un sonnambulo. Si guardò intorno. Era in biblioteca. Scaffali semivuoti, i dorsi dei pochi libri salvati dal fuoco. Sull'uscio c'era Esther, la primogenita, 12 anni di capelli biondi e occhi verdi. «Tua madre ha bisogno di qualcosa?» le chiese. «No, padre, la mamma sta bene. Ma è arrivato il signor Joseph Brandt. Chiede di essere ricevuto. Dice che è molto importante». Lupus in fabula. Joseph Brandt non era mai venuto a Guy Park, se non come accompagnatore e interprete. Non soltanto interprete, ma ponte tra le due comunità, unite dall'interesse e dalla fede anglicana. Insieme al reverendo Stewart, aveva tradotto in Mohawk il Vangelo di Marco. Eppure, se grattavi sotto il velo della Chiesa d'Inghilterra, su una sponda trovavi i papisti, sull'altra pagani, due tribù di uomini in maschera. Joseph era uno dei figli dell'intesa costruita da Sir William, pianta cresciuta da un innesto, guardato con sospetto dagli indiani meno a contatto coi bianchi, guardato con timore dai bianchi meno a contatto con gli indiani, guardato con rispetto da chi, su entrambe le rive, si preoccupava di tenere saldo il legame. Il messaggero era stato scoperto e scuoiato vivo. Per com'era la situazione, non erano nemmeno in grado di portare una notizia agli Oneida, la più vicina delle tribù sorelle. Erano isolati. Quel che Joseph raccontava rendeva ancora più impellente obbedire all'ordine ricevuto. Sir John aveva già detto che non si sarebbe mosso da Johnson Hall, che facesse come gli pareva giusto. Guy decise che sarebbe partito, portandosi dietro la famiglia. «Joseph, fratello, se questa ribellione diventasse guerra aperta, che farebbero le sei nazioni? Combatterebbero per Re Giorgio?» «I Mohawk sanno bene che i figli ribelli di Re Giorgio sono gli stessi che commettono ingiustizia contro di loro. Gente come Jonas Klug». «Quindi? Le sei nazioni non sono soggette alla corona. Nella nostra lingua la parola suddito non esiste. Sir William lo sapeva. Non ci ha mai trattati da sudditi, ma da alleati. Sir William ha fatto tutto quanto era possibile per proteggere i fratelli indiani dai coloni che minacciano le vostre terre. Lo ha fatto in nome del re. La mia gente questo non lo dimenticherà mai. Tuttavia, Sir William non c'è più». Guy annuì con amarezza. Joseph proseguì. «Per convincere la mia gente a disseppellire l'ascia, Warraghyllegay avrebbe chiesto un concilio. Avrebbe parlato in Mohawk. Dopo lunghe discussioni, i Sachem avrebbero accettato, nonostante le sofferenze causate alle sei nazioni dalla guerra di 20 anni fa. Perdemmo uomini valorosi, perdemmo Hendrik, e non ne avemmo granché in cambio. Avrebbero combattuto non per il re inglese, ma per William Johnson». «Adesso il commissario sono io», ribatté Guy. «Sono un Johnson. Mia moglie è la figlia di Sir William. Attende un bambino che forse sarà maschio, erede in linea diretta di Warraghyllegay. Non conosco il Mohawk, ma posso parlare in un concilio, col tuo aiuto». «Sono l'interprete del dipartimento. Se a Johnson Hall si terrà un concilio, farò il mio lavoro». «Non qui nella valle. Allarmerebbe i ribelli. Fornirebbe il pretesto per un colpo di mano. Dobbiamo riunire le sei nazioni a molte miglia di distanza, a Oswego». Joseph aspettò prima di replicare. Guardò fuori dalla finestra. «Sono molti giorni di viaggio». Guy seguì lo sguardo dell'indiano. «Oswego è al centro della lunga casa. Le nazioni parteciperanno numerose. Tu sei un capo di guerra. Convinci la tua gente a venire. Questa ribellione è la minaccia più grave che i Mohawk e le sei nazioni abbiano mai affrontato». Joseph parve meditare sull'ultima frase. Guy tacque il vero motivo della scelta. Oswego era sulla via per Montreal. Il generale Cage chiedeva truppe per il Canada. Se il concilio fosse andato come auspicava, Guy avrebbe guidato un'armata indiana. Questo a Joseph non poteva dirlo. Il collo continuava a scricchiolare.